9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì di 20 di giugno, Sant'Ettore, auguri a tutti gli ettori, martore sotto Diocleziano. Tema oggi obbligato perché ieri intorno al pratone di Pontida si era accumulato molta tensione politica, erano anni che al rituale appuntamento preestivo della Lega non si concentravano tante attenzioni e tante polemiche preventive e successive, perché è ovvio, dopo questo anno in cui la maggioranza e il governo si sono indeboliti dopo la doppia legnata del secondo turno delle amministrative, del primo turno delle amministrative e poi dei referendum, il malessere che oramai non solo serpeggia ma si esprime in maniera sempre più potente nella base della Lega alleato al PDL era molto forte, e quindi tutti erano in grande attesa per le parole di Boss. Abbiamo montato qualche materiale fonico tanto per riepilogare quello che intanto avete già capito e sentito dalle telegiornali e GR, ma sentiamo qualcosa di Pontida di ieri. Sono cari. Padania! Libero! Volete la sensazione, ci si prepari. Non è mica detto che le prossime elezioni noi andremo con Berlusconi. Dipenderà dalle scelte che verranno fatte. Eccoci, però rivediamo bene in che cosa consiste questo semi ultimatum del o fai un po' di cose Berlusconi concrete in questi tempi oppure andremo liberi, anche se per il momento non apriamo la crisi, non facciamo questo regalo alla sinistra. Questo in sintesi le parole di Bossi, ma avete sentito che si torna a scandire lo slogan secessione da parte della base, un grande striscione Maroni presidente del Consiglio che avvia una fase nuova anche all'interno del partito. Quali sono gli impegni e lo scadenziario di tempi illustrati nel volantino che è stato diffuso in decine di migliaia di copie ieri sul pratone di Pontida? Ecco, le richieste della Lega sono queste: entro 2 settimane via libera il Consiglio dei Ministri e la riforma costituzionale, il che significa dimezzamento del numero dei parlamentari, Senato federale e sua approvazione definitiva in Parlamento entro 15 mesi, ma entro 2 settimane bisogna avviarla. Poi, entro 2 settimane, sempre, via libera dal Consiglio dei Ministri sul decreto legge con riduzione dei contingenti impegnati all'estero. La riduzione è più o meno nell'ordine di grandezza della metà, molto decisa, molto pesante, Quirinale, punto interrogativo. Poi, questa è la scadenza delle prime 2 settimane, poi scadenza a un mese cosa chiede la Lega? Chiede innanzitutto che si attivino le procedure per attribuire ulteriori forme di autonomia alle regioni che le abbiano richieste, e qui c'è l'accoglimento di una richiesta della regione Lombardia guidata da Formigoni, nei confronti della quale fino a questo momento la Lega è stata più con Tremonti che ha tagliato risorse alla Lombardia, mentre invece la Lombardia è tra quelli che dice siamo più virtuosi, ci avete tagliato di più, vogliamo autonomia funzionale secondo il 116 del titolo quinto e come invece la nostra richiesta il governo di centro-sinistra e di centro-destra ha detto no. Poi altra richiesta della Lega entro un mese, approvare le misure di riduzione delle bollette energetiche, poi la riforma del patto di stabilità interno per i comuni e per le province, chi ha capitoli di avanzi di bilancio li può usare, possa usarli per investimenti, opere pubbliche, mentre invece è inibito dal patto di stabilità. Poi ancora taglio dei costi della politica, finanziamenti del trasporto pubblico locale, l'approvazione delle prime norme concrete per l'abolizione delle ganasce fiscali e per mettere uno stop all'eccesso, allo squilibrio a favore di Equitalia nelle procedure di riscossioni verso i contribuenti, e questo è il pacchetto entro 30 giorni. Poi c'è un pacchetto a 2 mesi, la Lega chiede che si approvi definitivamente i criteri per definire i costi standard da applicare alle amministrazioni dello Stato. Poi entro l'estate del 2011 via libera al Consiglio dei Ministri alla riforma fiscale, sua approvazione definitiva in Parlamento entro la fine dell'anno. Entro autunno 2011, fine definitiva dell'annosa questione delle quote latte che alla Lega sta molto a cuore. Ieri bandiere bianche degli ultra non in regola con la normativa al portone di Pontida, e infine entro dicembre 2011 approvazione definitiva del codice delle autonomie. Programma impegnativo, i quotidiani variano nell'interpretazione, molto colore nella reazione del PDL sulle richieste di trasportare i ministri i ministeri nel nord, con l'iniziativa di Alemano e della Polverini che si sono appellati immediatamente al Quirinale e che come evidente fanno fronte trasversale guardando anche al centro-sinistra, per dire no alla Lega. In buona sostanza il governo può andare avanti in questa settimana con Berlusconi che prevedibilmente si presenterà alle Camere martedì senza modificare un granché quello che tutti ci possiamo aspettare. C'è una pressione, è vero, nei confronti della riforma fiscale di Tremonti, ma non è così ultimativa. Un quotidiano tra tutti, La Stampa, con un giornalista che ha sicuramente parlato con Tremonti, ci sono dei virgolettati, fa capire che Tremonti ieri pomeriggio, andando verso l'Ecofin, l'Eurogruppo e l'Ecofin che si deve occupare del guaio greco, vede un Tremonti con dei virgolettati positivi sulle richieste della Lega e sicuramente non incalzato, non messo troppo nell'angolo, ma insomma diciamo che il bilancio finale è un bilancio finale di quelli dove tutti i problemi e tutte le richieste del scollamento si vedono. La possibilità di desumerne più coesione e davvero interventi incisivi del governo, punto interrogativo, perché laddove lo spazio all'interno delle coalizioni si allarga per le critiche, le polemiche, le messe a punto, ci sono basi di partito così piene di dubbi che i leader devono assecondare perché non hanno buone risposte da dare loro, è difficile immaginare che possano portare dopo due sberle a interventi incisivi. Questo è almeno quello che penso io alla luce di questo guaio greco che ha un anno e mezzo è ancora lì irrisolto. Stanotte l'accordo all'Eurogruppo non c'è stato, il mercato scommette sempre di più sul fatto che oramai si tratti di stabilire attraverso uno strappo, un default greco, procedure per il default dei paesi dell'euro, senza le quali non ci sono fondi comuni che possano arginare i guai quando il mercato scommette contro. Però questo accordo è molto complicato a farlo, perché significa dire agli elettori del nord Europa cose diverse da quelle che gli si è finora detto. Allora, con chi commentiamo questa serie di punti incentrate sulla Lega e ieri Pontida? Abbiamo ospite in questa prima parte della trasmissione innanzitutto il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, che ringrazio e saluto. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Marco Alfieri, inviato della Stampa, buongiorno a te Marco. Buongiorno a voi. Nicola Porro, vice direttore del Giornale, grazie a te e buongiorno a Nicola Porro. Buongiorno. Presidente Cota, prevale nella sua lettura e come lei ha ascoltato e partecipato a Pontida la messa a punto nel governo critico che inizia, per così dire, a dire guarda non ci contare più su di noi perché è difficile che tu faccia tutto questo, oppure è la maniera energica per dire ci siamo, non molliamo e però tu guarda che o riesci a portare a casa questo oppure davvero devi preoccuparti per te più che per noi? Ma guardi, il futuro diciamo è nelle mani di ciascuno, nel senso che noi abbiamo detto quello che secondo noi, secondo la nostra gente si deve assolutamente fare per dare una scossa, e poi il tempo dirà se questa scossa verrà effettivamente data. Noi lo diciamo ovviamente con uno spirito assolutamente positivo e lo diciamo con quella coerenza che abbiamo sempre dimostrato nella nostra azione al governo, però oggi quelle cose devono essere fatte, non c'è il minimo dubbio, perché la gente vuole delle risposte e la politica ha il dovere di dare delle risposte. Il governo ha fatto tante cose, devo dire che la Lega ha il grandissimo merito di avere dei ministri che lavorano con grande impegno e di aver fatto oltre a questo anche delle riforme importantissime come quella del federalismo fiscale, che è l'unica vera grande riforma che è stata fatta negli ultimi anni. Adesso bisogna anche proseguire l'azione dando appunto alla gente delle risposte concrete su quei fronti che abbiamo indicato, no? Anche per un problema evidentemente di coerenza. Noi siamo in un momento di crisi, abbiamo la necessità di far ripartire il nostro sistema produttivo, abbiamo la necessità di incidere il più possibile attraverso la leva fiscale. Io nel mio piccolo, se poi me ne darà la possibilità, vorrei dire, perché non si riesce mai a, si parla sempre di alcune cose. Noi in Piemonte abbiamo fatto una riforma fiscale, in Piemonte stiamo dando degli incentivi sotto forma di deduzioni IRAP, quindi praticamente non si paga la quota di IRAP regionale per determinate categorie di imprese. Stiamo parlando comunque di misure che incidono, siccome noi l'abbiamo collegato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, si tratta di misure che incidono per in quota per 1000 euro per ogni lavoratore, quindi se abbiamo un'azienda con 100 nuovi lavoratori sono comunque 100.000 euro l'anno risparmiati, quindi non è che sia esattamente zero. Questa è una politica fiscale evidentemente che noi abbiamo fatto dove governiamo, dove io governo per esempio in Regione Piemonte. Ma volevo dire che per fare una politica fiscale evidentemente bisogna darsi delle priorità. Allora oggi la nostra presenza in determinate missioni e soprattutto quel tipo di presenza in una situazione come quella libica richiede un ripensamento, per esempio. Lei ieri è andato in pullman con i militanti, corretto, mi hanno detto? Sì, io sono andato in pullman con i militanti perché sentivo dentro questa esigenza di fare il viaggio in pullman, di ritornare alle origini e insomma io... Presidente, posso fare una domanda? Perché abbiamo tutti visto com'è andata a Novara le elezioni e questa, alle ultime amministrative è stato evidente che il processo che era in corso da tempo, per cui il PDL andava peggio nel nord, voi recuperavate e anzi aggiungevate, si è un po' fermato. Questo che cosa riguarda? Riguarda la base leghista che dà un messaggio e dice così non andiamo avanti, o è per così dire la capacità di aggregare fuori della Lega, che l'elettorato aggiuntivo che era tornata in questi anni potente sotto le vostre bandiere, nel vostro vento, che ha cambiato segno, come ha cambiato segno un po' il disincanto generale di molti elettori verso il governo? Lei come la vede? Ma guardi, se lei mi fa l'esempio di Novara è una cosa un po' strana, perché poi bisogna sempre riflettere e fare dei bagni di umiltà, perché questa è la prima regola. Però io a Novara sono andato per esempio a guardare analiticamente i voti della Lega, e la Lega alle elezioni, a queste elezioni comunali amministrative, ha preso gli stessi voti delle regionali, dove abbiamo fatto il record storico. Se uno va a guardare, legge circa 9.700 voti alle elezioni regionali, dove ero io candidato a presidente della regione, e 9.400 e adesso posso sbagliare, mi sembra 60 voti alle elezioni comunali. Quindi diciamo i voti dati alla Lega evidentemente ci sono e ci sono stati. E però? Però scusi se posso finire, il meccanismo di voto delle comunali è un meccanismo particolare per cui se tu non fai il 50% esatto, c'è il ballottaggio, e lì poi il ballottaggio è sempre negativo, diciamo, per chi parte in testa di solito, e soprattutto per questa parte. Ecco, diciamo, mi ha dato una risposta diplomatica, molto diplomatica. I voti ci sono, però la questione è se sia la base o se sia la forza propulsiva verso il resto dell'elettorato che prima non votava Lega, questo resta appunto aperto. Capisco la diplomazia. Quello che chiedo a Nicola Porro è di tornare al punto della questione. Oggi il giornale preferisce una scelta, diciamo, su ciò che non è avvenuto. Bossi non tradisce, mette il titolo d'apertura del giornale, e quindi deluse le aspettative di chi credeva che saltasse il tappo. Detto questo, sull'interrogativo di fondo c'è una coesione che viene da un'iniezione di forza dal partito senza il quale poi Berlusconi va a casa e che in termini ultimativi chiede cose che però a quel punto vanno fatte proprio per questo, oppure l'effetto delle richieste di Pontida di ieri è un ulteriore contributo allo sfilacciamento, secondo te, Nicola Porro? Ma quel titolo nasce dal fatto che ieri avevamo un inviato a Pontida di cui mi fiderei, che è Vittorio Feltri, in effetti, che è andato lì a... ma mi fiderei non soltanto perché è il nostro ex direttore ed è un giornalista abbastanza, come posso dire, attento ai problemi del nord, ma perché c'è stato proprio alla nascita di Pontida, quindi l'idea di Feltri era quella di dare il senso di quello che era il popolo del Pratone, quel Pratone che c'è di fronte a Pontida, quindi lui ha letto in questa maniera, io non c'ero, mi fiderei, però la domanda tua è molto più sofisticata di questa mia risposta, e secondo me ci sono due elementi. Il primo elemento è che la Lega non è riuscita, io ho sentito bene Cota che stimo molto, però la Lega non è riuscita a supplire alla perdita di consensi dell'ex Forza Italia, oggi PDL, alle ultime elezioni amministrative. Adesso parliamoci chiaro, l'attesa era questa, l'attesa era che nel centro-nord il partito di governo venisse identificato nel PDL e la Lega invece riuscisse a recuperare i consensi attraverso quello stile molto forte della Lega, che è un partito di governo ma riesce sempre a dare l'impressione di essere anche un partito di opposizione o comunque di stimolo al governo. Ebbene, questo non è riuscito alle ultime elezioni, quindi questo è un elemento fondamentale dal punto di vista politico per capire quello che sta succedendo oggi. Quindi una Lega che è forte perché resta forte, perché la Lega non è morta ma neanche un po', e c'è ragione Cota su questo, perché poi dal punto di vista numerico è fortissima, però non è riuscita a fare quel salto di qualità che qualcuno le attribuiva, non so se i dirigenti leghisti ci credessero fino in fondo, ma questo non è riuscito. Il secondo elemento è che la Lega ha bisogno di rivendicare in maniera secondo me corretta per ogni partito politico, rivendicare la sua specificità all'interno di un governo e di non farsi stritolare dalla personalità direi di Rompenza, Presidente del Consiglio. Beh, ma questo nei governi più o meno di coalizione è normale, e soltanto qualcuno ci aveva raccontato che il governo Berlusconi era fatto da un dittatore che stava gestendo un regime. Il regime mi sembra molto sfilacciato, e soprattutto l'errore di base è che questo dittatore, questo suo disonno di dittatore, aveva un accordo fondamentale con un movimento regionale fortissimo, dall'identità fortissima, che è quello leghista. Poi se avremo modo di parlare, ne parleremo anche di alcuni difettucci secondo me populisti che crea oggi questa posizione della Lega, ma insomma questo è un discorso che si può fare dopo. Però rispondendo alla tua domanda, la Lega sperava di più e ha ottenuto di meno, ma la Lega proprio per questo oggi deve rivendicare all'interno del governo delle posizioni che la rendano molto molto molto identificabile dal futuro elettorato. Alfieri, a te faccio invece, pur nello stesso quadro, quindi anche a te chiedo la stessa cosa, però ci aggiungo il fatto che La Stampa è il giornale che ha il commento forse più secco e definito, perché il commento a Pontida dice la spinta propulsiva è finita, ed è un commento molto critico di Federico Geremica. Poi nelle pagine che danno conto di Pontida è anche il quotidiano che più decisamente coglie un elemento che tutti però hanno visto a Pontida ieri, e cioè il ruolo di Maroni, e voi ci puntate decisamente, ci fate una pagina che dice Maroni premier, sta partendo la diarchia, forse più per il futuro. Ma partiamo da questo giudizio: perché spinta propulsiva finita? Ma indubbiamente spesso si è letto durante la doppia debacle, diciamo elezioni amministrative più referendum, una grande defezione elettorale verso Silvio Berlusconi. In realtà io ci aggiungerei anche, e questo è stato l'elemento forse poco sottolineato o passato come dire tra le righe, di anche una debolezza della leadership bossiana e quindi della Lega. Il famoso cestino di cui parlavi tu prima e Nicola Porro, cioè il fatto che nell'ultimo ciclo elettorale del 2008-2010 in qualche modo il PDL, meridionalizzandosi sempre di più, perdeva voti al nord, ma c'era il cestino della Lega che funzionava, quindi si creavano malumori, ma come dire, i voti restavano nel perimetro del centrodestra, quindi sostanzialmente un pochino di cortocircuito, ma l'alleanza andava avanti. E il meccanismo si rompe, il giochino si rompe quando anche la Lega inizia a perdere voti. Io cito sempre il caso di Treviso, dove la Vandea di Luca Zaia alle provinciali due settimane fa la Lega perso 91.000 voti rispetto, ha vinto alla grande, perché comunque lì è il partito veramente è diventata la vecchia DC, è un partito provincia ormai, però ha perso 91.000 voti nel giro di 10 mesi, quindi questo dà il senso davvero anche del declino e della discesa della discesa di consensi di Umberto Bossi. Io userei questa metafora, cioè la Lega sembra arrivata al punto di una sorta di necessità di ricambio generazionale, no? Come le piccole imprese che spesso rappresenta. Finché c'è questo vincolo, finché rimangono in piedi Bossi e Berlusconi che si puntellano a vicenda, quindi c'è anche un elemento psicologico per cui Bossi non è in grado, come dire, di staccare la spina, è chiaro che la Lega avrà una difficoltà nel rilanciare la sua finta propulsiva. Nel momento in cui, e qui arrivo al secondo pezzo del mio ragionamento, della tua domanda, il ruolo di Maroni, se sarà in grado di trovare una via d'uscita, una nuova leadership, magari anche cambiare la legge elettorale per avere le mani libere, allora potrebbe avere una seconda vita, perché sono d'accordo con Nicola Porro, certamente le ragioni della Lega non sono certamente declinate, anzi tutto il tema appunto del federalismo fiscale da applicare, il tema dei tagli lineari che ha fatto molto arrabbiare i sindaci del nord, senza fare differenze tra comuni virtuosi e comuni sprecati, sono tutti temi decisivi che saranno davanti chiunque sia, qualunque sarà il governo alle porte. Però insomma mi sembra che questo elemento sia molto forte, la necessità di trovare una nuova leadership, so dicendolo di rompere anche un tabù rispetto appunto al tabù bossiano, al grande totem che ovviamente è la Lega Nord, come tale impone una difficoltà, come imporrebbe una difficoltà, come dire, il cambio generazionale dentro un'impresa dove l'imprenditore è padre e padrone, no? Questo credo che dia anche il senso che tenga insieme il nord economico, il nord politico incarnato da Umberto Bossi. Però insomma questi mi sembrano i nodi, e Roberto Maroni ieri è stato forse il vero elemento politico nuovo, c'è stata un'investitura a Roberto Maroni da parte del Pratone di Pontida, e anche credo velatamente nelle parole di Umberto Bossi. Maroni è stato per alcuni anni un pochino alla berlina dentro il partito, un pochino surclassato da quello che i giornalisti chiamano il cerchio magico. Negli ultimi mesi Maroni è tornato molto molto influente all'orecchio di Umberto Bossi, credo che forse l'elemento nuovo sia questo. Eccoci tornati in studio, stiamo analizzando Pontida di ieri, la Lega e le nuove richieste nei confronti del Presidente del Consiglio, che poi questi giorni torna in Parlamento per la verifica dopo la sbella delle amministrative e dopo il referendum. Ultima domanda a Roberto Cota, il Presidente della Regione Piemonte, che ci deve poi lasciare. Ha sentito i commenti di Nicola Porro e di Marco Alfieri, crede davvero che ci sia questa questione che comunque un po' tutti i giornali hanno colto ieri, di Maroni, della necessità di una svolta nuova, anche se tutti dicono poi c'è un elemento generazionale e anche della malattia di Bossi, che ha unito Bossi e Berlusconi al punto tale che risulta molto difficile per il leader poi staccare davvero la spina un giorno in cui si dovesse farlo e tornare magari a mani libere di fronte ai vostri elettori nel nord e non solo. Che pensa Cota? Io rilevo due cose, no? Allora, la prima è che, per carità, poi ognuno può fare i commenti che vuole, ma attenzione a dire che la Lega ha esaurito la forza propulsiva, che la Lega è, attenzione a dare questi giudizi, lo dico perché chi ha dato questi giudizi in passato è sempre rimasto poi, come dire, si è schiantato contro il muro, nel senso che i giudizi dati si sono rivelati puntualmente sbagliati, perché la Lega ha attraversato tante fasi, ha attraversato fasi in cui ha avuto più consenso elettorale, ha attraversato fasi in cui ha avuto meno consenso elettorale, però la sua determinazione, la sua coerenza, il suo radicamento sul territorio l'hanno poi hanno fatto sì che superasse tutte le difficoltà e che arrivasse poi al record storico, diciamo, del 2010. Oggi noi stiamo parlando di numeri che comunque sono numeri ai massimi, no? La Lega comunque anche nelle ultime elezioni amministrative ha fatto una performance, diciamo, ha ottenuto dei risultati che sono risultati a livelli massimi, cioè quelli del 2008 sostanzialmente, e quindi attenzione. Secondo, Bossi è il nostro leader, è un leader carismatico, quindi non anche qui per quanto riguarda le chiavi di lettura, Maroni, Calderoli, altri dirigenti sono sempre esistiti e hanno sempre avuto un ruolo importante, cioè Maroni ha sempre avuto un ruolo molto importante all'interno del movimento, Maroni è il ministro dell'interno, Maroni è diciamo la punta di diamante dal punto di vista istituzionale. Però lei dice di qui a parlare di investitura della Di Tappiano. No, io quello che voglio dire è che grazie a Bossi, e questo se voi fate un viaggio nella Lega lo scoprite, la Lega è un movimento che ha diciamo un leader, un grande leader riconosciuto e amato da tutti, ma sotto anche una classe dirigente di persone come Maroni, che ovviamente sono delle punte di diamante, perché questo è un investimento che Bossi ha fatto in tanti anni. Lei dice c'è un gruppo, c'è una classe dirigente, in effetti rispetto sì, ai primi tempi diversi. Chiacchia. Sicuramente. Benissimo, allora io ringrazio il presidente Coda per il tempo che ci ha dato e sentiamo qualche ascoltatore rapidamente, innanzitutto Massimo che ci chiama da Ferrara. Prego Massimo, lei che opinione ha avuto da Pontida? Buongiorno signor Zannino. Io volevo innanzitutto fare una premessa, io l'ho ascoltato ieri Pontida, però penso che a distanza di 3 anni in cui abbiamo questo governo si parli ancora di programma, per me c'è qualcosa che non va. Qualcosa non è andato come doveva, in effetti. Infatti stiamo ancora parlando di programma a distanza di 2 anni. Si ricorda che a loro fra 2 anni ci saranno altre elezioni. Per quanto riguarda il discorso ieri di Pontida, io ho ascoltato Pontida, tante belle cose hanno detto, cose che riguardano anche a me. Io sono potenzialmente un elettore di sinistra, però condivido pienamente quello che hanno detto. Però forse non hanno capito che sono loro che sono al governo, non sono l'opposizione. E questo qua è il mio appunto. Ieri ho sentito un discorso di un partito di opposizione. E in effetti devo dirle, negli sms, il 349-238-6666, il più degli sms stamattina sono, vabbè, ma loro dove erano questi anni che dicono fai questo? Esattamente come dice Massimo. Questo è il problema di fronte al quale poi ci sono i governi di coalizione in Italia. La differenza tra il dire e il fare, e quando si tratta di fare ci sono sempre contingenze internazionali, e l'11 settembre oggi, e la grande crisi degli anni passati e poi l'emergenza in Libia, qualcosa che poi dice non si può, perché non si può fare l'economia, l'emergenza sono sempre i saldi pubblici, mai la riforma delle tasse. E questo è l'eterno problema dell'Italia. Io per esempio vi dico, sono radicalmente in dissenso con quello che Mario Monti, lo trovate oggi sui giornali, ha detto ieri intervistato da Lucia Annunziata. Mario Monti, come al solito, dà la versione tecnocratica per la quale Italia non pensarci neanche un secondo al taglio delle tasse, tu devi solo pensare ai saldi pubblici e tanto neanche quello riuscirà a fare la politica. Io penso che non ci sia bisogno di consigli radicali di questo tipo, perché io sono radicalmente accampato sulla sponda opposta invece. Proprio a furia di pensare che sono solo i saldi pubblici il problema, ne abbiamo parlato venerdì, ci siamo sempre solo limitati a tagliare spesa pubblica aggiuntiva che arrivava, risultato la spesa pubblica è sempre cresciuta, e abbiamo sempre tenuto le tasse all'inseguimento, cioè in salita della spesa pubblica che cresceva. Questa impostazione che noi dobbiamo all'eccesso di fiducia nell'Europa è un'impostazione radicalmente sbagliata, e anche se lo dice una persona di cui ho grandissima stima, uno dei più grandi contributori all'idea d'Europa in Italia come Mario Monti, resta per me radicalmente sbagliata, perché è esattamente ciò rispetto a cui bisogna cambiare marcia in Italia. C'è bisogno di qualcuno che dica no, la spesa pubblica può e deve diminuire di alcuni punti di PIL, e sono esattamente quei punti di PIL di spesa pubblica in meno che devono essere liberati per far crescere il paese, alle imprese e al lavoro. Credo che la crisi di cui stiamo parlando, quella che ci segnala il nostro ascoltatore da Ferrara, quella degli sms che ci dicono ma dove stavano al governo, sia esattamente una crisi che ha a che fare con questo problema. Ci ha raggiunto intanto Francesco Speroni, quindi un'altra voce storica del gruppo dirigente della Lega. Posso chiedere la sua interpretazione invece di Pontida ieri, qual è stata? Più un contributo energico per dire Berlusca svegliati, ma si può ancora fare, oppure l'inizio dell'elenco della spesa in nome del quale poi la Lega dirà arrivederci se non addio? Lei che pensa, Speroni? Direi la prima ipotesi, nel senso è vero quello che si dice, siete al governo, cosa avete fatto eccetera, ma finora ci sembrava di aver fatto bene, anche perché siamo in un paese di continue elezioni, quindi dopo l'elezione del 2008 del del Parlamento italiano, abbiamo avuto le elezioni del Parlamento europeo, le elezioni regionali, e c'è sempre stata una conferma e addirittura una crescita dei voti alla Lega, quindi stando almeno ai risultati elettorali pensavamo di agire bene. Queste ultime elezioni hanno visto una disaffezione dell'elettorato, abbiamo visto che in qualche caso appunto il consenso è diminuito e abbiamo fatto una riflessione. Stiamo valutando che appunto forse quello che facciamo non è così incisivo e quindi vogliamo ripartire, e da Pontida abbiamo indicato degli argomenti che secondo noi sono preponderanti, sono quelli da attuare in scadenze limitate, anche perché fra due anni la legislatura finisce. Allora, domanda per Nicola Porro. La prima era relativa a un accenno che hai avuto nel tuo primo intervento, quando parlavi qualche populismo di troppo, questo fa male alla Lega, ed ero incuriosito di sapere come la pensavi. La seconda, Giulio Tremonti, in quello che può fare in questa legislatura per la riforma fiscale, di cui ha dato qualche punto generale, credo che ci tornerà Berlusconi in Parlamento, secondo te è più forte o più debole dopo la Pontida di ieri? Ma il populismo, guarda, sono due o tre cose che mi stanno qua e che un po' che mi voglio togliere dal groppo. Il primo è quando io vedo i governatori leghisti che vanno a votare i referendum e votano sì ai referendum. Avi pazienza, siamo ovviamente fuori tempo massimo, però quella dei referendum, lascia perdere il legittimo impedimento, che era un referendum politico, quindi non voglio entrare in quel referendum, anche se è singolare che un governatore ex ministro di Berlusconi voti il legittimo impedimento, però è un referendum politico. Ma insomma, i referendum invece sull'acqua e sul nucleare hanno visto una, secondo me, ma è modestissimo a mio parere, minoritario nel paese, una parte dell'Italia che pensa che ci sia un contenuto quando si parla di liberalizzazioni, maggiore efficienza della macchina pubblica, i costi della politica, e quella parte del paese però, insomma, mi stupisce che poi vada a votare per mantenere in mani pubbliche la gestione delle acque, dei tubi delle acque. Quindi questo è una piccola doppia anima leghista, cioè quell'anima leghista che invece vuole le province, vuole le municipalizzate che si occupino dell'acqua, e questo, fatemelo togliere dal gruppone, mi spiace che non c'è Cota, ma Speroni forse mi risponderà. La seconda cosa è che francamente io penso che una grande battaglia per la Lega che conosco io non sia quella di aumentare, di portare i ministeri a Milano, ma sia quella di diminuirne il numero, semmai. Cioè, una grande battaglia della Lega è chiedersi che cosa servano i vecchi cavalli di battaglia, insomma, dei liberali, l'attuazione del programma, la semplificazione, il ministero della gioventù. Adesso non è per le singole persone. No, fatti. Cioè, per carità, anzi, io ho grande stima per esempio di alcuni di questi ministri, però dico, questa mi sembra una battaglia della Lega, peraltro anche giusta, perché è la stessa che lei chiede nel volantino che ci davi tu prima della riduzione del numero dei parlamentari, cosa che vorrei ricordare era stata fatta dal precedente governo Berlusconi e poi con la Lega e poi bocciata dal referendum. Nel referendum confermativo, sì. Io la penso esattamente come te. Anch'io credo che spostare i ministeri è un po' come quando a Milano tra il primo e il secondo turno il centrodestra ha avuto la bella pensata, credendo in questo, poi di recuperare margine tra l'elettorato cittadino, di dire vi aboliamo le multe, aboliamo le copass. Tutti i moderati che io conosco hanno reagito con un pernacchio dicendo ma per chi ci avete preso, per dei borbonici? Lo dico con il rispetto per i borbonici, però questa era la reazione. Non credo che abbia fatto bene al centrodestra a Milano quell'impostazione. Mi chiedo se lo stesso non valga per dire spostiamo il ministero al nord piuttosto che aboliamoli o comunque restringiamoli, ecco, come dice Nicola Porro. Sentiamo un ascoltatore al volo, Antonio da Brescia. Prego, Antonio. Antonio, ci sente? Sì, la sento. Ecco, dica. Ecco, io sono un elettore leghista, ero a Pontida. Ecco. E voglio dire che sappiamo benissimo che eravamo al governo e c'è stata tantissima gente, perché infatti volevamo chiedere conto di questi due anni di governo. Però io, mi sembra che i nostri dirigenti abbiano preso posizione, cioè abbiano capito. E poi non sottovaluterei la faccenda dei ministeri del nord. Ecco, perché? Perché Bossi ha detto ieri, noi non ci prenderemo la responsabilità di far cadere il governo. Però io vedo che Alemanno, la Polverini chiedono già una mozione, vogliono fare una mozione chiedendo un voto alla Camera. La responsabilità non ce la prendiamo noi, ce la prendono qualcun altro di bocciare sempre queste proposte, anche perché cioè può essere una tattica, perché insomma Bossi un po' ammaccato, però forse un po' di esperienza ce politica l'ha. Ce l'ha. E poi l'ultima cosa, Maroni Premier è sentitissimo nella base, questo è indiscutibile, quindi penso che sia un'ipotesi che facciamo bene a prendere sul serio. Bene, allora ringraziamo, intanto abbiamo un minuto sulle informazioni sulla circolazione stradale e poi torniamo con Gastone dalla provincia di Vicenza. Eccoci tornati in studio con un altro ascoltatore, Gastone, che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Prego Gastone. Buongiorno Giannino, a lei e agli ospiti e agli ascoltatori. Io sono anch'io un elettore come quello che mi ha preceduto e concordo con quello che ha detto. Ci sono però un paio di cosette. Quindi lei è un elettore leghista storico e non deluso. Sì. Sono un paio di cose sulle quali non concordo col nostro leader. Primo, io i ministeri al nord non li vorrei proprio, perché non abbiamo bisogno di altri carrozzoni. E sulla linea Porro Giannino, perfetto. Io sono convinto appunto che poi ci troveremo con dei nuovi dirigenti, dei nuovi impiegati qua, che sarà una succursale del ministero di là, per cui lasciamo là i carrozzoni che non abbiamo e bisogno. Diminuiamo i dipendenti pubblici. Beh, sono, la penso come lei, sì. Dopodiché io vorrei che il nostro caro Umberto tornasse sulla questione regione autonome, perché quel Roma ladrona un po' stona, perché i ladroni ne abbiamo anche al nord e molto più ladroni dei romani. Vorrei che l'Europa c'è, regioni autonome, o tutti o nessuno, basta. Basta questa storia, no? Basta, non serve più. Qui c'è un tema, no? Qui c'è un tema che Gastone pone, che secondo me il fatto che nella base leghista, d'accordo, decreti attuativi, il federalismo che entrerà in vigore con lo fiscale 2019, però le regioni ordinarie rimangono troppo deluse, quelle virtuose e soprattutto quelle virtuose del nord, rispetto al fatto che le straordinarie, le gestioni straordinarie di chi ha l'autonomia storica resta con tutti i poteri, che alle regioni ordinarie restano invece negati, e questo è un problema secondo me abbastanza sentito. Sbaglierò, ma io la penso così. Alfieri, come vedi l'impostazione netta, diciamo, di critica che ha dato il tuo giornale, che avete dato tutti voi con le vostre analisi su come si è evoluta nel tempo la base storica della Lega, eccetera eccetera. La base leghista, i dirigenti leghisti tendono a dire c'è qualche eccesso nel crederci come al solito in difficoltà. È un po' così, resta un po' così che la Lega poi è ancora un animale politico abbastanza difficile da interpretare secondo i cicli tradizionali, capace di risorgere quando è morto e capace poi di continuare a crescere. Questo cosa può voler dire però? Che la prospettiva di liberarsi le mani alla fine è davvero quella attraverso cui ritualmente Bossi ha fatto passare il suo movimento dopo anni di governo? Ancora una volta sarà così secondo te? Ma io penso, lo diceva anche prima Cota, è vero che la Lega è sempre un movimento ciclico, cioè si gonfiava e si sgonfiava fisarmonica, no? Sembrava morta nel 99-2000, poi dopo è risorta, nessuno probabilmente immaginava che nel ciclo 2008-2010 addirittura più che raddoppiasse i propri voti, quindi bisogna stare sempre a prenderla con le pinze, anche perché poi la lettura che si dà da parte dei media, qui faccio anche un'autocritica, diciamo, di categoria, è sempre molto, molto stereotipata e molto, molto pigra. Però c'è un elemento nuovo, certamente nell'ultimo periodo, cioè che ormai l'alleanza sodalizio Bossi-Berlusconi, che ha dato vita a quello che poi appunto Edmondo Berselli chiamava il forzaleghismo, con una certa efficacia anche semantica, dura ormai da un decennio, cioè quindi questa fisarmonica si è un po' bloccata in termini di mani libere o alleanze per arrivare al federalismo. Io noto una cosa, che ieri plasticamente Pontida l'ha restituito, cioè c'è stata una sorta di dissonanza tra una base che in qualche modo è stata lasciata libera di scarsi, quindi rientrando nella categoria della Lega di lotta, e poi Bossi, che certamente con qualche colorito epiteto appunto a vantaggio e per la base, però sostanzialmente ha parlato il linguaggio della politica, della realpolitik, cioè ha detto che non ha mai parlato di legge elettorale da cambiare, che è un po' prodromica al fatto di tenersi le mani libere e di percorrere altre strade, e poi come dire ha detto attenzione, non è il tempo del voto anticipato, perché altrimenti vincerebbe la sinistra. Quindi come dire c'è un Bossi strettamente politico che risponde alle logiche appunto della politica, al linguaggio della politica, però c'è anche un Bossi e una classe dirigente leghista invecchiata, un pochino democristianizzata. Prima sentivo qualche lettore, io ho fatto un po' di giri diciamo così nel nord in questi giorni, insomma si sentono toni e accenti critici nei confronti di Bossi che fino a un paio di anni fa non erano addirittura impensabili, ecco. Erano impensabili. La domanda finale che faccio a Speroni è, per quello che riguarda le aspettative della gente che chiede, posso immaginare di avere un po' meno tasse se questa riforma fiscale di cui Tremonti parla e tutti gli altri non si capisce se sono a favore o contro, in che cosa consisterà e se ci sarà. Secondo lei Tremonti nella riforma fiscale attesa da tutti da tanti anni, promessa e poi mai avvenuta, è più forte nel farla nei prossimi mesi dopo la puntita di ieri oppure no, secondo lei Speroni? Direi proprio di sì, è una richiesta precisa, la prima richiesta che ha fatto Umberto Bossi, poi ci sono le altre, perché appunto va bene il federalismo fiscale, il federalismo germaniale, però non si sono ancora concretati in vantaggi concreti né per i comuni né per i loro cittadini, e quindi c'è questo stimolo forte nei confronti del ministro Tremonti. D'altro canto tutti sanno che abbiamo dei buoni ministri, l'ottimo Maroni che è considerato uno dei migliori ministri dell'interno, però il ministro dell'economia non è della Lega e quindi è giusto che la Lega faccia le sue pressioni. Vorrei dire una cosa sui ministeri, può essere importante o non importante avere dei carrozzoni o non carrozzoni, io volevo replicare a chi dice che i ministeri devono rimanere a Roma perché così è scritto nella pietra, non è scritto da nessuna parte. Intanto dire che siccome sono sempre stati a Roma, devo rimanere a Roma, non è vero, perché erano a Torino, erano a Firenze. No, certo, certo. E poi questo vuol dire non volere il cambiamento è proprio cambiare qualcosa che è lì da sempre. In ogni caso la Costituzione non dice nulla sui ministeri, non dice dove devono stare. Questo è corretto. Dice Roma capitale, la legge di attuazione parla di Roma come sede degli organi costituzionali, che sono il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale e il Governo. I singoli ministeri non fanno parte. No, si può discutere, certo. Ma siccome qualcuno si appella alla Costituzione, sbaglia. Qualcuno chiede l'intervento del Presidente della Repubblica, dimostra semplicemente ignoranza giuridica. Ecco, politicamente ognuno fa le sue osservazioni, però dire è la Costituzione, la legge, è semplicemente sbagliato, tutto qua. E questo è l'appello alla correttezza. Resta il fatto che poi le reazioni più dure sono venute proprio dal centrodestra, perché Renata Polverini, il presidente della Regione Lazio, Alemanno, sindaco di Roma, che sono esattamente quelli che sono appellati al Presidente della Repubblica, immediatamente hanno dato la risposta, che è sempre la parte del centro-sud del centrodestra che poi mal sopporta la Lega. Vedremo che cosa ancora ci riserva il futuro. Grazie a Nicola Porro, a Marco Alfieri, a Francesco Speroni e al presidente Cota che era con noi nella prima parte della trasmissione. Ultimo spot, ve lo farò tutta la settimana, ma in conclusione vi prego, in questa settimana diamo un'attenzione a una campagna che è molto utile, usare le barche a vela per gli adolescenti allo sbando, per recuperare i ragazzi. Allora andate sul sito www.mattiperlavela.org, troverete la descrizione di questo progetto Matti per la Vela Onlus. Io ogni giorno in questa settimana ci tornerò sopra, perché questa settimana voglio fare campagna per il fatto che donate 2 euro con un sms, chiamate da rete fissa allo 45502, fatelo da cellulari TIM, Vodafone, Wind, Trenitalia, Postmobile, Tiscali, Coop Voce, qualunque cosa, rete fissa Telecom Italia. Andate intanto a vedere www.mattiperlavela.org e capite la bellezza di questo progetto che usa le barche a vela per recuperare i ragazzi. Io ci credo fermamente, sono un patito della barca, conosco le persone che lo fanno, sono straordinarie, dategli una mano, ci torno sopra anche domani. Appuntamento domani, linea al giornale radio.